Intanto io sono qui di nuovo ancora nella penultima puntata di co-conduzione coxica con l'associazione W1IA nelle vesti della Irma W e di Federico W. Salve a tutti, buonasera. Vi presento il W Original. Ciao Stefano. Pasquini. Ciao, siete dei non posso che ringraziarvi per avermi sostituito così egregiamente. No, ma tu fatti gli affari tuoi tranquillamente, non c'è problema. Fai con comodo. Vabbè, adesso vado a comprarmi una pizzetta. Noi con W ci stiamo bene, Stefano. No, ci stiamo allargando proprio tanto che marzo forse è uno dei mesi con più puntate in assoluto, il giovedì. 5 giovedì. E infatti noi ormai, cioè, casa nostra questo studio, capisci? E io sguazzo e godo. Però intanto che tu sei lì, sonda il terreno, raccogli informazioni, che una bella puntatina, uno specialino su questa questione così sarebbe bellissimo. Volevo venire alla festa, soltanto che non ci sono riuscito, non riesco mai a fare niente, perché in realtà non vedo blu da una vita. Perché abbiamo mai fatto visto delle mostre insieme e avevo voglia sia di vederlo che poi di capire anche il suo punto di vista, ma non ce l'ho fatta, per cui sono un fallimento totale e così vi posso dire che i cani all'XM24 sembrano più puliti del solito oggi. Ah, bene, ottimo. Tanta primavera a tutti. Allora buone lasagne vegane. Buona Pasqua a Pasquini. Buona Pasqua a Pasquini, capta se questo e quest'altro, se ci sono informazioni, in caso magari ci risentiamo per la prossima settimana. Non si sa mai, certo, molto volentieri. Sarebbe bellissimo. Cercherò di carpire il carpibile. Benissimo. Va bene, buona lasagna vegana. Vi saluto Willy Merda. Visto che siamo in tema di XM, io andrei con la rappresentante di lista. Dai, il nostro inno del mese. Bye. Oh yeah. Buona Pasqua a tutti. Ciao. Buona Pasqua. Ciao Pasquini. Ciao. Cosa farò? Io lo so cosa faremo. Faremo la 135esima puntata del Coxo Spaziale, che sarà la più scoppiettante. Che vi vedo stracarichi dalla sigla che ballate, ma ero distratta a riprendervi. Siete dei ballerini fenomenali. Ed è anche l'ultima puntata prima di Pasqua, e quindi abbiamo salutato anche il grande W Pasquini. Oh yeah. Grande W. E quindi noi siamo qui con l'associazione Naia, co-conduttrice eccezionale mega galattica delle puntate di marzo, e stiamo affrontando i temi del come teatrale. Yeah. Come farò da grande, visto abbiamo incontrato un sacco di persone che lavorano nel teatro con in modi diversi. Esatto. Abbiamo attraversato i come della creatività, i come del rapporto col territorio, e quest'oggi che come andiamo a trattare insieme a Irma e Federico? Come riuscire a campare e qui me lo sul territorio me lo strappate sempre. Beh, è che non ci mettiamo d'accordo, dobbiamo deciderne me lo prima. Lo strappate sempre. È così all'improvviso. Cioè, l'ostacolo abbiamo sempre solo usato nelle menzioni, ma da quando c'è Irma è proprio un. Siamo così teatrali, capisci? Che proprio papam, sempre. Dunque, oggi siamo tra noi, facciamo salutino, non autoreferenziale. Mai. Autoreferenziale, infatti saremo noi oggi a parlare un po' delle realtà che abbiamo visto, che ci piacciono, dei vari come. E questa è una puntata estremamente utile, che sarebbe anche, può anche fungere da manuale per mettersi in attività. Esatto, auspicabilmente. Certo. Io direi che poi affrontiamo proprio una sezione bando alle ciance che analizza. Ha fatto un gioco di parole. Hai visto che roba? No, che analizza i bandi delle istituzioni pubbliche a disposizione, e che non sovvenzionano, e non sì, sì. anche di messi a disposizione da fondazioni private. Quindi una parola chiave è bando. Una delle parole chiave della puntata è bando. È bando. E quindi di riflesso un'altra delle parole chiave è produrre una documentazione per partecipare al assolutamente bando. Cioè progettazione. Ma. E quindi entriamo subito nel vivo. Io passerei la parola subito alla presidentessa. Grazie, cara. Grazie. Presidentessa Irma Ridolfini dell'associazione Naia Investe W. Ma niente, allora noi abbiamo incontrato in queste puntate appunto prima Naia a respirare il teatro con il suo lavoro sia di produzione che di contatto con il territorio attraverso i laboratori Nando e Maila, che fanno sia lavoro sul territorio che compagnia di giro. E però abbiamo parlato, se vi ricordate, nella primissima puntata di progetti che stanno nascendo, di compagnie che stanno cercando di darsi una struttura un attimino più solida, perché il problema qual è fondamentalmente? Che in questo momento storico essere attore, essere artista, quindi, non è più sufficiente qui in Italia. Ma anche all'estero, per quanto riguarda gli stati, come dire, a noi cugini, come la Francia, la Spagna, vanno peggio le cose? Ma insomma vanno peggio di qualche anno fa, nel senso che in ogni caso, solo che loro giustamente si incoxano, e quindi loro si incoxano, ecco, questa è la differenza tra noi e i cugini d'Oltralpe. Noi invece siamo già coxizzati, sì, noi ci lasciamo scorrere le cose addosso come l'acqua sotto la doccia e quindi va bene, sì, sì. Però insomma degli strumenti ci sono. Degli strumenti ci sono. L'ingegno appunto, è patrio. È patrio. Diciamo, cioè, che è ovvio che in questo caso, parlando di progettazione, capire cosa fare e come volerlo fare è fondamentale, perché poi lo devi raccontare a qualcun altro, e questo qualcun altro deve dire: come siete bravi, adesso vi diamo dei soldi. E soprattutto riuscire a metterlo sotto forma scritta, di progetto scritto. Esatto, che è un lavorone. Anzi, è un lavoro a sé quello, riuscire a scrivere appunto dei progetti in per maniera. Esempio, appunto, una delle prime puntate io avevo tirato fuori così molto a grandi linee un progetto di rete milanese tra compagnie teatrali capeggiato da Ludwig, Officina dei Linguaggi Contemporanei, e questo progetto si chiama Melting. Avevamo già forse messo il link, sì, su il fantastico l'ho fatto blog. Presidentessa, brava. Ecco, questo Melting è una unione di compagnie che sono poi proprio Ludwig, Idiot Savant, Teatro Ma, Eco di Fondo e Maniaci d'Amore. Queste cinque compagnie, si sono messe insieme per creare un misto tra la compagnia di giro italiana, per chi ci ascolta, la compagnia di giro proprio quella che fa le tournée, quindi non ha una stanzialità, e invece la compagnia stanziale, che è più un modello europeo, quindi quella che sta su un territorio e vive quel territorio. Loro stanno a Milano, per cui c'è un'alternanza, ci sono spettacoli che girano e spettacoli che restano. Quindi qual è il valore aggiunto di creare una rete, un'associazione, un progetto insieme tra queste compagnie? Ma il valore aggiunto spesso è che insieme si hanno le forze per dotarsi di strumenti che da soli non si riesce a darsi, come figure organizzative, amministrative, figure che si occupino dell'aspetto promozionale, perché quando ci si occupa della creazione artistica, si va in scena oppure si fa la regia, si scrive, non sempre si ha il tempo, cioè la giornata è fatta di 24 ore per anche promuovere su Facebook i tuoi eventi, curare il sito internet, tenere dietro a tutta la rendicontazione dell'associazione. E di solito in questo ambito, almeno se da un punto di vista artistico e creativo gli artisti sono anche ben disposti a lavorare, a investire il tempo senza un compenso diretto, sì. Invece dal punto di vista della pubblicazione e dell'organizzazione, lì non ci piove che i soldi devono venire fuori. Assolutamente, sì. Così come non ci piove, quindi, che come nel campo artistico ci vogliono dei professionisti, ci vogliono dei professionisti anche sugli altri fronti, perché esatto. Certo. Quindi queste compagnie, a fronte di necessità comuni, uniscono le risorse per pagare, esatto, questi servizi, ecco. E questo è uno, sì, diciamo, sì, che proprio l'unione fa la forza, e quindi sai, quando si riunisce sotto un'unica tasca più tasche, si riesce ad ottenere un risultato migliore, sì. E forse si potrebbe anche riuscire ad avere un dialogo più una voce più forte nel dialogo con le istituzioni e con i fondi, sì. Perché ci sono dei fondi previsti per le produzioni culturali e artistiche? Ci sono assolutamente, per esempio uno dei bandi alle ciance di cui vorremmo parlare oggi è il bando Funder 35, scritto con la F piccola ma la U grande, perché è a sostegno di realtà Under 35, che è un bando istituito fondamentalmente da una serie di fondazioni bancarie sul territorio nazionale, con capofila Cariplo, che è una fondazione bancaria lombarda. E questo è un bando a cui moltissime delle realtà che ci interessano e di cui parleremo oggi hanno partecipato e hanno ottenuto dei fondi. Ludwig l'anno scorso ha ottenuto con un suo progetto ben 45.000 euro, sì. Perché è un fondo molto sostanzioso che premia una cinquantina di progetti all'anno. E adesso la maggior parte del nostro pubblico, che mi immagino viaggi su altri canali rispetto a quelli artistico, mm-hmm, e quello teatrale e quant'altro, dirà: ma tutta sta fatica per 45.000 sì, euro, infatti. E pensate, invece a noi sembrano tantissimi, sembra manna dal cielo, e invece per quelli che lavorano in questi ambiti in Italia sono soldi che permettono di organizzare il lavoro su vasta scala, quindi sì. In realtà, a fronte di un investimento relativamente piccolo, mm-hmm, si può creare un indotto del lavoro, sì, e del benessere condiviso, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista reale, esatto, del sostentamento. E tra l'altro, appunto, questo bando Funder 35 è finalizzato proprio a questo, cioè è rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro, composte in prevalenza da Under 35, e è finalizzato proprio al rafforzamento della struttura di organizzazioni che esistono già da qualche anno, ma che per riuscire a mantenersi e a fare un salto di qualità hanno bisogno di uno slancio economico. Proprio si parla di empowerment. Ma questo bando è su scala nazionale, anche, sì, se a Milano, quindi su scala nazionale ci sono alcune province d'Italia che sono escluse, perché fanno fede le aree di intervento di tutte le fondazioni che concorrono a creare il fondo, e quindi bisogna poi andare a vedere sul sito, che credo sia www.fander35.it. quest'anno il bando non è ancora uscito, ma dovrebbe uscire a breve, perché ricordo che l'anno scorso la scadenza era tra giugno e luglio, quindi non dovrebbe mancare tanto, ecco. Ecco, c'è da dire che per chi ci ascolta è un po' esterno, no, al mondo dell'arte teatrale, però noi siamo presissimi per questa cosa. È proprio pane quotidiano, perché stiamo cercando in tutti i modi di capire come sarà la mia prossima domanda. E come viverci anche quotidianamente. Facciamo una distinzione semplicissima. Ci sono istituzioni grosse come gli enti lirici, per esempio, quindi pensiamo proprio a tutti i teatri lirici italiani, che producono spettacoli di opera lirica, balletto, oppure ai teatri stabili, si chiamano così, nazionali, che adesso si chiamano nazionali. Riforma. Sono quanti? Sette attualmente, giusto? Sempre meno. Perché i soldi, i case, sempre manco. Sono sempre meno anche i soldi. Appunto, anche i teatri nazionali fanno parte di questo. Di questa cerchia di grandi produttori, sì. E come dire, che possono beneficiare di fondi molto più grandi di quelli. Lì andiamo a quello che non so se si chiama ancora adesso FUS. Si chiama ancora FUS. Allora, Fondo Unico dello Spettacolo. Bravissimo, c'è ben. Poi qui ovviamente ciò che a noi interessa è parlare di come realtà indipendenti molto più piccole possono riuscire a farcela anche senza. E adesso, per ulteriormente ampliare un attimino il discorso, renderci più accessibile, una domanda che io potrei chiedermi se stessi ascoltando questa trasmissione adesso è: ma c'è un progetto, ma che come va fatto? E mi verrebbe da rispondere che in realtà, per entrare in queste dinamiche, si tratta, quello che viene fatto è trattare un progetto di tipo teatrale o artistico allo stesso modo in cui si tratta un progetto per la produzione di qualsiasi altra cosa. Certo. Quindi ci vuole un piano manageriale in cui si creano degli obiettivi, sì, delle modalità, un piano di spesa, si valutano le opportunità a favore, le opportunità contro, rischi e un budget preventivo, esatto, con il quale ripagare tutto per giungere a delle. Un business plan, si tratta fondamentalmente di fare impresa, non c'è niente di diverso da una qualsiasi altra azienda, solo che si parla di cultura e diciamo in Italia si fa un po' fatica a comprendere che è possibile fare impresa. Noi per primi dobbiamo ancora interiorizzare questo concetto, che si può fare impresa con la cultura. In realtà un articolo di pochissimi giorni fa su Repubblica proprio riporta: con la cultura si mangia, alla faccia di chi era che lo disse? Sì. Era un politico che un po' di anni fa uscì con la frrase. Io fosse Brunetta. Sì, qualcosa del genere. Credo, comunque, potrei aver fatto una gaffa. Giù di là. Li confondo un po' tutti quelli lì. Comunque, scusatemi, ma se in Italia non si vive di cultura, di cosa si deve vivere? Le trivellazioni del territorio? Sì. Ecco. Toccando temi caldi. Bene, e visto adesso che ho detto la mia ho manifestato la mia cima, direi che potremmo anche fare un break per giungere alle nostre amate poi pubblicità. Oh yeah. Delle 7:30. Yes, business baby. Business plan. I've got lonely lips on account of a broken heart, on account of a dream that fell apart, on account of I tried to play it smart. I've got lonely lips on account of my flirty eye, on account of I told my heart a lie, on account of a love that I'll have died. If only you'd come back to me, my lips would whistle a song in the hap, hap, hap, hap, happiest key. I'd whistle all day long. I've got lonely lips on account of I'm sad and blue, on account of you found somebody new, on account of I lost the love of you. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip If only you'd come back to me, the lips would whistle a song. In the hap, hap, hap, hap, happy is he, I'd whistle all day long. Paesaggi spaventosi. Coxo sacrale. Coxo spaziale, coxo spaziale. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo pasquale, coxo pasquale, coxo... cavoli! Hai visto quante cose belle ci sono, Zano? Mo sì, un sacco! Ma voilà! Ma è tutto rizomatico, è tutto coxico qua a Radio Città Fusico 103.1, sai? Perché adesso Gozzano ritorna grande protagonista proprio qui... Quella. All'angolo della menzione! All'angolo della menzione! Ed eccoci! Chi c'è? E chi c'è? C'è il speciale Menzioni Dulcamara Circus. Che si trova proprio ad Ozzano. Oh, a Ozzano! Nelle colline. Nelle colline. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata e quindi vi ricordiamo che domenica 27, ore 16. La domenica di Pasqua. Esatto. Proprio quella. Ciao Pasquini. Alle 16 le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, at Sala delle Arti alla Dulcamara, un irresistibile spettacolo di circo teatro comico musicale dei super mega galattici Nando e Maila. E non metto lo stacchetto perché tiro su la levetta e abbiamo anche la sorpresa di avere qui Nando. No, ma c'è Nando? Qui? Nando? Pronto? Sì, c'è! Che ci racconta qualche cosina su questo spettacolo. Ci racconti qualcosina tutti e tre, quelli che sono... Rinfrescaci la memoria. Allora, prima questo di domenica. Sì, domenica, diciamo, rivissiamo noi, quello spettacolo è stato della domenica scorsa, non è lo stesso spettacolo, siamo sempre invece la stessa compagnia Nando e Maila, con le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, quindi è uno spettacolo musicale, lo dice la parola stessa, dunque dove sostanzialmente la storia si sdipana, ecco, hai visto che bel termine, si sdipana attraverso delle acrobazie musicali, cioè suoneremo la struttura che è dedicata fondamentalmente al trapezio e ai tessuti e si trasforma, la stessa struttura si trasforma in strumenti musicali, campane, arpe, violoncelli e contrabbasso. Ricchi premi e cotillon. E cotillon, esatto. mi ricordo che fra l'altro era una delle cose che ci avevate raccontato la volta scorsa di come era nato questo spettacolo mentre vi chiedevamo ma come fate voi? Esattamente. E allora... la possibilità di vedere il risultato. Quindi domenica. Questo è domenica di Pasqua. Che noi garantiamo essere fantastico. E qua ci metto pure lo stacchetto. Eccolo. Proseguiamo con... continua lunedì 28. Alle ore 16 con Sogni d'estate nel Prato della Fatteria, lo spettacolo di Pasquetta vede protagonista il Circo Pitanga, uno spettacolo mozzafiato di circo teatro e acrobazie aeree. Chi sono? Sono Oren e Lois, sono due carissimi amici, Oren israeliano e Lois svizzera, che ci venivano a trovare e per l'occasione abbiamo detto: perché non avete voglia di fare uno spettacolo? Capisci come nasce una direzione artistica? No, per i come di Coxo Spaziale. Esattamente, è un grande privilegio per noi averli, perché loro viaggiano tanto, portano un livello di circo molto alto, e averli in una, come dire, una timida inizio di rassegna come la nostra, timida ma non troppo, nel senso che usiamo anche un po'. Ecco, com'è andata? No, aspetta. Ecco, è andata. Vorrei fare lo stacco all'ospite internazionale della rassegna per Pasquetta. Circo Pitanga. Bene. Ecco. No, dicevamo, quindi com'è andata domenica 20, che è stata inaugurata la rassegna? Domenica 20 è stato il tripudio, cioè abbiamo avuto la sala piena, zeppa, non sapevamo più dove metterli, più di 300 persone. Fantastico. E questo ci risolleva di tutti gli sforzi fatti prima dell'inizio, di tutti i dubbi che avevamo, quindi speriamo anche speriamo che continui così. Dopo domenica 27, lunedì 28, anche martedì 29. Martedì è un giorno un po' particolare, perché non è un festivo, quindi la gente, l'orario è anche un po' strano, alle 5 e mezza. E anche la proposta è qualcosa di veramente particolare, legato al territorio. Dalla terra al cielo, sempre alla Sala delle Arti, conclude il programma della Maratona Pasquale lo spettacolo realizzato dagli allievi della Scuola di Circo A Testa in Giù. Di Ozzano, sempre. Esattamente. A testa in giù la dice tutto, cioè nel senso che molti saranno messi a testa in giù sul trapezio e i tessuti, e quindi sono praticamente i nostri allievi della scuola di circo che esibiranno una sorta di saggio spettacolo. Sono circa una 25-30, sì. Sereno variabile 25-30. Vediamo chi non si ammala di questi cigni. Speriamo. Nando, ti suona il telefono? Cioè, siamo noi. Come siamo noi? No, se in radio, cioè, ci sono telefoni che suonano, non si capisce. Ma perché è tutto così spontaneo. Ma è partito così. Come Dulce Amara Circus, spontaneo e genuino. Comunque adesso io ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e il feedback rispetto alla settimana prossima, ma non credere che sia finita, perché mi rifarò viva anche nelle prossime settimane. Vi teniamo d'occhio. Intanto Pasqua alla Dulce Amara. Esatto, dimmi quando mi chiami che tengo il telefono. Che lo stacchi. Va bene. Grazie mille. Ragazzi, in bocca al lupo e tanta merda si dice. Sì, merda. Poi spieghiamo anche il perché. Sì, certo. Spiegato. Ciao Nando. Ciao. Oh yeah. Allora noi continuiamo un attimo con sempre con martedì 29, che è alle 21:30. No, continuiamo prima con c'è una canzone bellissima, io ragazzi. Sono un cane. Sì. Madonna, che meraviglia. Stormi, questo. Lontani si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, prima il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati del sale, per stendermi al sole. Ma nel pianto si avanzavano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole. Vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu per stendermi al sole. Io credo che tra i come teatrali di Nahia tra un po' ci sarà qualcosa anche di profondamente musicale danzereccio, perché che come bello. Si sono scatenati qua stasera. No, ma, c'è questa... ma perché questo è un cantautore meraviglioso, scusate, non a caso c'è. È sardo. Così lo dico. Ecco, vabbè. E non a caso siete di nuovo connessi e anticipate i tempi, perché di cantautori andiamo a parlare adesso, continuando con il nostro L'angolo della menzione. Lo voglio dire io questo stacchetto prima o poi, mi piace troppo. Sì? L'angolo della menzione. Però in accento bolognese marcatissimo. L'angolo della menzione. Ma per questo angoletto qua come continuiamo, donna Irma? Ma continuiamo, mia cara, martedì 29, come dicevo prima del fantastico Stormi, ore 21:30, martedì in giallo al Bravo Caffè, continuano gli appuntamenti con il format concerto dedicato ai cantautori emergenti italiani. Stavolta si esibiranno Tizio Bononcini, giovane cantautore emiliano, dal carattere teatrale. E rieccoci col teatrale. Appunto. Keire Valamaghe, cantautore con particolare inclinazione all'esperimento tra acustica e elettronica, e Radio Londra, band romagnola dal sound pop rock. Ci piacciono i romagnoli a noi. E come di consueto tutti presenteranno i loro progetti musicali e si racconteranno attraverso la mini giallo intervista. E a proposito di giallo, abbiamo proprio qui la padrona di casa, nonché ideatrice e fondatrice di Format, nonché XW. Nonché XW, inauguratrice delle conduzioni in W, Roberta Giallo. Ciao Roberta! Sì, quanto era lunga questa presentazione, dico, quando arrivi? È che tu fai tante cose, quindi siamo poi ci vuole un po' di tempo. Per... Siamo dei prolissi di grazie, merda. Ragazzi, non grazie. si dicono del coxo. Del coxo. Dai, scusami. Ma Roberta. Avete già detto tutto praticamente. Sì, è martedì 29 al Bravo Caffè, ore 21:30. Vi aspetto insieme ad altri meravigliosi artisti per musica presenterò, insomma, noi vogliamo sapere emergenti. Visto che abbiamo detto Tizio Bononcini, che ha questo carattere teatrale, visto che siamo in tema, sì, raccontaci. Ma guarda, lui l'ho conosciuto durante la rassegna perché sono stata assalita in questi mesi da numerosissime persone che volevano partecipare. E lui, a fine di una di questi martedì in giallo, ha manifestato, insomma, il suo interesse rispetto alla cosa e quindi mi ha detto se poteva eventualmente partecipare. Poi io niente, semplicemente mi sono andata a spulciare su internet il suo materiale e ho trovato, insomma, che tale Tizio, che poi, insomma, Tizio ha cambiato nome diverse volte, si esibisce spesso in contesti in cui è una maschera anche, no? Ah. Diciamo, a volte col piano, col cello, diciamo che le sue canzoni ritraggono in qualche modo anche delle scenette, quindi c'è una teatralità spiccata da vedere. E io invece, visto che da tanto che provavo a telefonarti, ma una volta eri a suonare, un'altra volta non c'avevi la voce, un'altra volta questo brava, e quello anche volevo, no, che certo, a usarla tanto bisogna, insomma, no? E quindi volevo sapere un pochino come stava andando questa cosa. Mi pare di aver capito bene, perché sei subissata di richieste. Guarda, Fedra, tu non hai potuto, come dire, constatarlo con i tuoi occhi, ma è stato sempre pieno il Bravo, quindi felicità, perché evidentemente è un progetto che ha suscitato interesse e ha spinto le persone ad alzarsi dalla poltrona e a venire a vedere, a ascoltare, insomma, la musica dal vivo. Come? Diciamolo, la musica dal vivo va protetta, va incentivata, quindi questa iniziativa per me ha già raggiunto un buon risultato, per il fatto stesso che gente viene ad ascoltare persone che a volte non conosce. Ecco, volevo chiederti, Roberta, da quanto tempo esiste questa rassegna, così da capire il come, insomma, da riuscire a collocarlo all'interno, no, di una valutazione d'insieme? Ma allora, è partita il 19 gennaio, le considera 2 a volte 3 martedì al mese, credo che questo sia il 6° appuntamento, sì. Quindi diciamo in 6 volte. Primo anno proprio, quindi sì, è il primo anno, sì, è andata benissimo. Questa cosa, guarda, veramente toccando tutte le parti del corpo. Sì, certo, chiaramente. Toccati subito, Federico. Fino adesso è andata benissimo, poi insomma vi invito anche voi il 29 a venire, ma certo. L'ingresso è gratuito. Questa gratuità è stata insomma anche in qualche modo pensata per far sì che anche studenti o persone che magari a volte anche 5-10 euro sono comunque insomma dei soldini, sì, potessero venire. Quindi ha funzionato diciamo la formula, musiche emergenti più cantautori, la presentazione, l'intervista che in qualche modo ti dà un'idea di chi va a esibirsi rispettandolo anche, no? Perché anche certo, a volte, sì, poter dire 2 cose su chi si è, cosa si è fatto, con chi si è collaborato, pone anche il pubblico diversamente. Quando invece non viene detto niente, magari il pubblico è distratto, rimane più freddo. Ma certo, siamo comunque abituati a X Factor e Company, quindi esatto, capisci? E tu anche stai facendo qui un'opera, c'è questione molto rizomatica, perché Roberta è cofondatrice anche di un progetto, di un altro format, Concerto Spettacolo, che gioca proprio su queste medialità televisive. Sì, ci divertiamo a prendere in giro i reality, ma senza ammazzarli, perché io poi dico sempre questo: al mondo è bene che ci sia tutto. Certo, poi è chiaro che uno sceglie il mondo che lo rappresenta meglio. Come. Siccome certo, ultimamente alla musica d'autore o dei cantautori viene dato meno spazio nei canali importanti, bisognava fare qualcosa nel canale più underground. È bello che ci sia risposta, quindi sì, è bello che ci sia un giallo illuminante che rischiara queste notti di tenebre. Grazie Roberta. grazie a voi per questo momento di pubblicità. Ciao, ci sentiamo prestissimo, il mese prossimo con le novità. Ciao. Ok, bacioni. E noi abbiamo qualcos'altro? Sì, abbiamo l'ultima menzione. Ah, sì. Perché mercoledì 30 scade il bando Primo Maggio del Lavoro, progetto di ospitalità per una residenza creativa volume 1. Vi ricordate, ne avevamo parlato all'inizio del mese. Sì, con l'organizzatore. E questa è una open call rivolta a singoli artisti o collettivi, associazioni, cooperative o altro, che operino nel campo del teatro, musica, interventi interdisciplinari e performance. Interdisciplinari. E questo ci gioca perfettamente a fagiolo per ritornare alla questione al core delle nostre puntate. Exactly. Sì. Quindi, bandi da tutte le parti. Bandi da tutte le parti. Abbiamo parlato di Funder 35, che si spera uscirà a breve l'edizione di quest'anno, del 2016. Sono tante appunto le realtà che seguiamo, che ci piacciono, che hanno usufruito di questo fondo. Per esempio il progetto 3, Teatri in rete per emergere, che è stato ospite a Coxo a settembre, perché di queste 3 compagnie che sono Teatro Presente, gli OIS e il Teatro dei Gordi. Ah, me li ricordo io! Esatto, qui è venuta a presentare per Teatro Presente Manuela De Meo. Sì, si trattava dell'inaugurazione dello spazio Sementerie Teatrali, sì, giusto? Esatto. Sementerie Artistiche, che sta a Crevalcore. Artistiche, ho sbagliato, ma se non faccio un errore al Coxo. Loro per esempio hanno un bellissimo come, cioè si sono messi in rete con altre 2 compagnie che hanno sede in Lombardia, quindi gli OIS e il Teatro dei Gordi, e hanno vinto proprio un progetto con Funder 35 per darsi una struttura più più solida, tutte e tre insieme, però allo stesso tempo hanno avviato a Crevalcore, insomma, nel post terremoto, questo bellissimo progetto delle sementerie artistiche, dove questa azienda di sementi si è in parte trasformata in un teatro e in uno spazio dedicato a... Ma io infatti ero rimasta col voglino, adesso che torna la primavera mi chiedevo, ma chissà che cose, che fine hanno fatto, loro stanno preparando la rassegna primavera estate. In questo momento fortunatamente sono in Argentina a portare lì un loro nuovo debutto. Ma allora ancora meglio, una valenza proprio internazionale. Però su Facebook si legge, sulla loro pagina delle sementerie artistiche, che stanno però programmando la stagione estiva, insomma, quindi sentiremo parlare a breve, si suppone. Ma io sai cosa faccio? Faccio ritornare anche questo. Vai. Così. Un saluto. Sì, no, ma ritorno a questo connubio di cultura, no? C'è questo binomio, come dire, che ritorna spesso tra cultura in comune. Hanno anche quest'altra grande tema, che è il territorio che è agito, che è vissuto, che è fonte di vita, se gli si aderisce in qualche modo, no? Se ci si innerva di nuovo. E per fare questo c'è bisogno, come dire, di entrare in contatto con le istituzioni che sono, sul territorio ci sono, esatto. E quindi forse sarebbero le istituzioni che dovrebbero darsi una smossettina. Questo sicuramente, però non è vero che non esistono proprio, cioè ti rendono la vita difficile in tutti i modi. Parliamo con una co-conduttrice occasionale che ha passato mezza giornata in un ente oggi a cercare delle ragioni assolutamente teoriche. Una mattina alla SIAE comando tutto. Cioè, un nome di un romanzo. Una mattina alla SIAE. Comunque, no, per esempio l'Emilia Romagna è una regione che rispetto a tante altre fiora l'occhiello, investe sulla cultura quest'anno, basti pensare che il fondo per la legge 13, che è la legge regionale del 90 o del 91, che appunto stanzia i fondi per le attività di spettacolo in toto, quindi musica, teatro, danza, è stato incrementato e sono stati stanziati 8 milioni di euro per il triennio 16-18. Yes. Quindi, dove sono finiti? Il bando, la richiesta scade l'11 aprile. Esatto. Vi dico soltanto che il bando è lungo 99 pagine. Solo il bando, proprio bando alle ciance. Però insomma, ci si può mettere di buona lena a scrivere un progetto che risponda in maniera coerente. A questo proposito, sempre rimanendo in ambito regionale, è uscito anche un altro bando a sostegno delle attività di promozione culturale, ovviamente di carattere regionale, che è interessante perché è rivolto ad associazioni culturali o enti che abbiano a che fare con la cultura a livello regionale, quindi possono essere anche assessorati alla cultura di comuni. Quindi un'associazione, faccio proprio un esempio pratico. Sì, ci piace. Un'associazione, diciamolo, una compagnia, per dirlo molto più praticamente, può stendere un progetto insieme o capitanata dall'assessorato alla cultura o il comune di Vatte la Pesca e presentare questo progetto di finanziamento per un'attività culturale, sempre per il nostro carissimo biennio 2016-2018, cari. E insomma, anche qui la regione mette a disposizione. Io posso fondi. Dire che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, oltre che alle immagini dei W Naia che ballano, certo, il video dei W Naia che ballano, i W Naia che ballano in audio e i link per riascoltare la puntata, ci saranno anche i link per andare ad approfondire queste cose di cui abbiamo parlato. Come no? Assolutamente, certo. Sì. Tutti, garantito Naia. Tutti i bandi del mondo. Questo proprio per dire, insomma. Diciamo che la nostra co-conduzione vuole veramente essere di stimolo a tutte le giovani compagnie, perché non bisogna battersi, bisogna entrare nell'ottica che può diventare un lavoro a tutto tondo. Possiamo diventare grandi. Sì, poi ce ne sarebbero ancora. C'è, sì. È uscito già da un po' di tempo. Aiutami. Di che parli? Sto parlando di spazi. Di spazi, cioè è un bando rivolto alla riconversione di spazi che non sono. Stiamo parlando, Federico sta parlando di Culturability 2016. Culturability 2016 è un bando della Fondazione Unipolis. Quest'anno il tema è rigenerare spazi da condividere. Very interesting. Scade il 15 aprile, quello lo stesso è un bando molto interessante per chi sceglie un come incentrato su uno spazio. Parlavamo condivisione, prima, dialogo, riqualificazione, ricostruzione del tessuto sociale. Bravissima, esattamente questo. Grazie. È propriamente questo, quindi poi su il fantastico blog Coxo ci sarà anche questo link esatto al bando Culturability. Ma è una puntata che svolta, quindi sarà la pagina più cliccata dai teatranti. Basta aver la voglia di fare. Sì, sì. E ce ne sarebbero anche altri, chissà se abbiamo tempo di parlarne adesso, di dire l'ultimo. Ma avremo qualcosa tipo 2 minuti e mezzo. Ah, ce la facciamo. Il bando in questione è Giovani Direzioni del Centro Teatrale Mamimò. Qui torniamo più su una dimensione prettamente artistica. Giovani Direzioni è un bando ormai alla terza edizione, che è nato anch'esso grazie a un finanziamento di Funder 35 richiesto appunto dal Centro Teatrale Mamimò di Reggio Emilia, che però in realtà ha una doppia sede anche in Lombardia, ed è un bando rivolto a gruppi informali o compagnie fondate da poco che si siano riunite attorno a un progetto artistico, quindi attorno a uno spettacolo, a un'idea di spettacolo, ma abbiano bisogno di sostegno per riuscire a costruire proprio la macchina che sta attorno a uno spettacolo e a una compagnia. E sempre per chiarificare a chi non c'entrasse proprio niente. Dica. Che cos'è questa? Di cosa si compone sta macchina dal punto di vista pratico della realizzazione di uno spettacolo? C'è dietro tutta una serie di figure e di cose, no? Partendo dall'ufficio stampa, per esempio, che si occupa di comunicare alla stampa o ai social network, ai canali di pubblicità, che questo spettacolo esiste. Quindi sono per spettacoli prima, già... Esatto. Possiamo semplicemente dire che i vincitori del bando Giovani Direzioni avranno l'opportunità di partecipare alla rassegna Giovani Direzioni presso lo spazio Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio, inserire il proprio spettacolo nel cartellone di prosa del Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia, inserire il proprio spettacolo in altri vari cartelloni e poi un contratto di scrittura per i giorni di allestimento e spettacolo. Questa è una cosa che solitamente le giovani compagnie non riescono a fare, il contratto di scrittura è impegnativo dal punto di vista dei costi burocratici, proprio di tassazione. Perché per rispondere appunto all'esigenza di contratto occorre che vadano ad essere versati determinati soldi comprensivi di perché IVA. Per la tutela non si chiama IVA, ritenute. La ritenuta d'acconto, IRPEF, insomma a tutela del lavoratore vengono versati una serie di contributi che però al datore di lavoro costano. Ma ovviamente. Esiste ancora l'EMPALS? No. No, è diventato tutto INPS. Ah. E non vi dico che cosa è successo proprio. È sempre più complicato. Io nei mesi scorsi ho parlato con dei funzionari INPS che mi dicevano: signorina, ci scusi, noi non sappiamo proprio dove mettere le mani. Io pensavo, ottimo. Io sono un esempio vivente di questa cosa. Io, come moltissimi altri, i miei contributi lavorativi da gennaio 2015 a agosto 2015 sono spariti nel nulla. Cioè l'INPS non sa. E queste sa. Sono le cose che succedono. Comunque, per ultimare, sempre per il bando Giovani Direzioni, i vincitori avranno un budget di 600 euro esclusivamente per l'allestimento di scene, costumi e attrezzature. Quindi ancora prima di arrivare all'ufficio stampa e quant'altro, si tratta proprio di metterlo in piedi questo spettacolo. Come di avere, compri i costumi, capito? Esatto, con quali soldi? Come? E con questi interrogativi che magari verranno affrontati nella prossima e ultima E Noi puntata di co-conduzione coxica con l'associazione W, Investe W, una IA. Io concludo. Insieme concludiamo e ci ringraziamo a vicenda anche agli ospiti che è venuto al telefono, alla Pasqua, grazie, ai telefoni che hanno squillato ovunque, e concludiamo la la epica 135esima puntata di Coxo Spaziale. Ciao. Ciao.